Noi scenderemo in piazza in quasi 20 città in tutta Italia perché appunto è la giornata internazionale per l'aborto libero, sicuro e gratuito. Come tutti gli anni ci mobilitiamo in Italia, ma appunto è una giornata internazionale, quest'anno in Italia questa data ha un significato politico ancora più importante. Sicuramente l'attacco all'aborto è un attacco che non si è determinato quest'anno, ma è un attacco costante. Non c'è una legge in Italia che effettivamente garantisce questo diritto, ma piuttosto c'è una legge che garantisce e tutela l'obiezione. Quest'anno in modo particolare vediamo però un attacco proprio diretto anche durante tutta la campagna elettorale che si è svolta contro l'aborto, ma sempre appunto questi termini. Giorgia Meloni, la futura prima ministra d'Italia, ha attaccato l'aborto sostenendo però che non avrebbe mai abolito la legge 194, non succederà mai quello che poi è successo negli Stati Uniti dove la Corte Suprema ha attaccato la legge Roe, ma quello che succede è che finanziano sostanzialmente le realtà pro-life e invece non finanziano i consultori. In Italia addirittura ci sono delle regioni dove non si riesce ad abortire perché l'obiezione arriva al 100%, sul territorio nazionale la media è del 70%, anche qua a Bologna, al Sant'Orsola, gli obiettori sono il 70% del personale medico ginecologico e nei fatti questo impedisce alle donne e alle persone gestanti di avere un aborto libero, sicuro e gratuito. L'attacco che si serra contro l'aborto poi è un attacco diretto alle povertà, è un attacco diretto alle persone migranti, è un attacco diretto alle donne e alle persone gestanti, perché poi sono sostanzialmente su queste persone che ricadono leggi e conservatrici di questo tipo. Sono queste politiche che sostanzialmente non garantiscono la libertà e l'autodeterminazione di persone che si muovono, che fuggono dalla guerra. Pensiamo per esempio al caso della Polonia, in cui tante donne sono fuggite dall'Ucraina e si sono ritrovate in delle circostanze in cui appunto l'aborto non era garantito perché in Polonia è completamente vietato. Sostanzialmente in Italia ci stiamo inserendo in questo congiunto reazionario globale che si vede più simili appunto all'Ungheria, alla Polonia, a Malta, in cui sostanzialmente probabilmente ci ritroveremo con degli attacchi diretti al diritto di autodeterminare le nostre scelte, al diritto di scelta sui nostri corpi. A Bologna come e dove si svolgerà il corteo? A Bologna ci ritroviamo alle 18 in Piazza dell'Unità e partiremo in corteo, ancora dobbiamo comunicare il percorso, ma l'obiettivo è quello di bloccare la città. Il 28 settembre appunto è la prima giornata, si scende nelle piazze post elezioni, è una data che noi quando abbiamo iniziato a discuterla all'interno delle assemblee, all'interno degli incontri nazionali con il resto dei nodi, non una di meno, abbiamo discusso come una data che non poteva fermarsi all'aborto, che ovviamente parte da là perché l'aborto è simbolo della libertà di scelta, ma è anche una data, sarà una giornata in cui appunto si ricorderà un contesto internazionale complesso, si parlerà della guerra, del caro vita. Sono tutte questioni che appunto anche con il cambiamento del governo di quest'anno, con quello che ci si prospetta davanti, hanno a che fare con la libertà di scelta, la possibilità di autodeterminarsi tutte e tutte.